versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, bentornati. Non so se dirvelo, perché magari siete stati in ascolto di Radio 24 anche durante il nostro palinsesto estivo ad agosto. Torno io e vi saluto tutti e vi ringrazio di essere qui in ascolto, o a coloro che come sempre ci scaricheranno poi in podcast per sentirci quando possono. Questo primo settembre, cui ricomincia il palinsesto autunno-inverno, e quindi tornano a Milan la mattina presto, torna Caccia prima di me, torno meritatamente, ma anch'io una versione di Oscar, torna Cruciani più tardi, e ci auguriamo tutti di rimanere a fare una radio di servizio buona per tutti voi. E in inizio di questo nuovo ciclo io vi segnalo che, come sapete, se siete degli ascoltatori per così dire sistematici, questa trasmissione prende molto da voi, quindi se volete suggerire temi, ospiti, dare giudizi, esprimere critiche anche sferzanti nei miei confronti o su argomenti di alcune puntate, e se volete segnalarci ingiustizie che soffrite o che avete visto e che non tollerate, siano esse pubbliche o private, scrivete, perché più di metà della trasmissione dello scorso ciclo è stata fatta grazie alle vostre segnalazioni e con le vostre richieste. L'indirizzo è molto semplice, è tutto attaccato alla versione di Oscar, chiocciola radio24.it. E in questo primo settembre, poco dopo il termine della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha presentato il nuovo sito passo dopo passo con la strategia dei 1000 giorni, che domani troverete in tutti i giornali commentata, e sarà un commento più delle volte ispirato a più o meno sardoniche critiche nei confronti di un Presidente del Consiglio che aveva annunciato che bisognava fare il boom, basta, tutto subito, e adesso però propone un programma scadenzato in 3 anni. Vedrete che molti commentatori osserveranno: ma questa è la strategia del cacciavite di Letta, ma come Letta non andava bene perché era troppo lento, adesso ci parla dei 3 anni. Sia come sia, perché questo non voglio, rispetto il punto di vista di tutti, ho deciso di ricominciare il ciclo su un punto di fondo che riguarda il vostro settembre, perché questo settembre è un mese con tante belle scadenze fiscali in arrivo tra immobili e altri tipi di imposte. Allora, siccome in queste settimane alle nostre spalle il Tesoro ha più volte detto che non gli risulta affatto che la nuova imposizione immobiliare, quella di Tasi più Tarsi, ma fermiamoci solo alla Tasi, che la Tasi sia più cara di quanto si pagasse nel 2012, perché sostiene che nei poco più di 2000 comuni che hanno già deliberato su oltre 8000 entro giugno l'aliquota, e che quindi solo in 2000 comuni su 8000 avete potuto pagare l'acconto a giugno. Per il resto vi ricordo che dovrete comunque saldare il conto tra il 16 di ottobre, anzi, perdonate, tra il 18 di settembre, la seconda rata, che sarà la prima per chi non ha potuto pagare l'acconto, e poi entro il 16 di dicembre bisogna pagare tutto ciò che i comuni delibereranno nel frattempo. Però il Tesoro sostiene che almeno a stare dalle aliquote dei primi 2100 comuni c'è un gettito che rispetto agli stessi comuni del 2012, quindi non teniamo conto del 2013 con l'abrogazione IMU prima casa, però è diminuito del 29%. Quindi il Tesoro ci dice: ma voi pagate molto meno del 2012, quanto sono infondate le critiche di chi dice che con la nuova Tasi, Tares, eccetera eccetera, si paga di più del 2012. Allora, questo argomento è un argomento su cui si è discusso molto in agosto, e mi è parso giusto chiedervi in questo inizio di trasmissione: voi che impressione avete? Avete l'impressione, se vivete in uno di quei 2200 comuni, davvero di pagare il 30% in meno del 2012? Prima domanda. Oppure, se vivete in altri comuni, cosa vi aspettate? Di pagare il 30% in meno da quanto avete letto sui giornali quotidiani delle aliquote di cui si discute nei vostri comuni? Terza questione. Nel mese di agosto è iniziato ad apparire chiaro un effetto che era stato molto sottovalutato degli aumenti di gettito dal mattone. Noi siamo passati in aumento di gettito dal mattone che era intorno a 10, poco più di 10 miliardi l'anno 4 anni fa a 26 miliardi quest'anno. Io stesso avevo più volte detto bisogna riequilibrare la tassazione e ci può stare a pagare di più sugli immobili se però lo Stato diminuisce molto le aliquote sui redditi. Siccome siamo un paese molto patrimonializzato, incentiviamo a usare meglio il patrimonio, però bisogna abbassare le aliquote sui redditi. Quello che non è avvenuto invece, perché noi abbiamo aumentato l'incasso e in taluni casi anche con la sovraliquota IRPEF abbiamo aumentato la pressione fiscale, sia diretta sia indiretta con gli aumenti dell'IVA e delle accise, sia quella sulle patrimoniali e soprattutto sugli immobili, che sono passati da neanche 10 miliardi a 26 miliardi in 4 anni. Che cosa è successo in questo mese di agosto, fine della mia introduzione? È successo che abbiamo iniziato a poter finalmente valutare qual è l'effetto che questo aumento di aliquota sull'immobile, in permanenza di forti e crescenti pressioni fiscali sugli altri cespiti, sia sul reddito che sulla tassazione indiretta, ha intanto esercitato sul totale della ricchezza immobiliare delle famiglie, che come sapete nel portafoglio delle famiglie il mattone è la parte prevalente, di gran lunga prevalente rispetto a quella finanziaria, e sono comparse delle stime degli effetti. Che cosa hanno significato passare da 10 a 26 miliardi in 4 anni? Ha significato un abbattimento e queste sono stime di Banca d'Italia, rispetto al totale del patrimonio immobiliare delle famiglie, un abbattimento, una perdita di valore stimabile tra il 20 e il 30%. Allora, tra il 20 e il 30% della stima totale che a fine 2012 era del valore degli immobili detenuti dalle famiglie, circa 5.800 miliardi di euro, mentre la parte finanziaria era di poco superiore ai 3.000 miliardi di euro, significa che la perdita di valore del vostro portafoglio immobiliare, per passare da 10 a 26 miliardi di incasso di imposta, è stata tra i 1.000 e i 2.000 miliardi di euro, cioè dalle 40 alle 80 volte circa il gettito ottenuto. È la stessa cosa avvenuta quando si alzarono le imposte, ricordate, sulle barche, sulle automobili, eccetera, eccetera, cioè il multiplo negativo rappresentato dagli effetti di perdita di valore di attività e di minori incassi, quindi anche da parte dello Stato, supera innumerevoli volte il prospettato aumento degli incassi, che in quel caso non c'è neanche stato, ma in questo caso l'effetto è enormemente maggiore perché colpisce ciò che è più presente tra tutte le altre attività nel portafoglio delle famiglie, cioè l'immobile, e quindi contribuisce potentissimamente a quella sfiducia, a quella depressione che a parole tutti dicono di volere curare con le nuove riforme. Il problema è che quando si ha alle spalle un depauperamento così forte di ciò che ha visto impegnare per molti decenni il più delle famiglie italiane, cioè il mattone, è ovvio che anche gli 80 euro, fine della premessa, moltissimi milioni, molti milioni tra quelli che l'hanno ricevuto, non lo destinano ai consumi perché nel frattempo devono fronteggiare perdite di valore patrimoniale elevato, oltre che perdite di reddito reale accumulate negli anni. E questo poi spiega ulteriormente perché errori fiscali di queste proporzioni ottengono effetti di gran lunga superiori a quel incasso aumentato dello Stato, per cui lo Stato è contento, ma non si è reso conto del disastro che faceva prima. Ecco, però, per parlarne meglio e per rispondere alla domanda, è vero che paghiamo meno? Come ci comportiamo di fronte a questo deprezzamento del valore immobiliare creato ai nuovi dalla nuova TASI? Che cosa vi aspettate, visto che 6.000 comuni su 8.000 non hanno ancora deliberato? Ho deciso di invitare il segretario generale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che ne sa molto più di me ed è in grado di dare delle risposte di fronte a tutto questo. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Secondo i vostri dati, innanzitutto, Spaziani Testa, è vero che si paga il 29% in meno rispetto al 2012 TASI su IMU? Ma quei dati hanno un vizio di fondo che è dato dal fatto che, come diceva in quella che ha chiamato premessa, ma in realtà era un trattato al quale è difficile aggiungere qualcosa di utile e di interessante, e come diceva in quella premessa si tratta di dati che riguardano poco meno addirittura di 2.000 comuni su oltre 8.000, e il raffronto forse non è quello che andrebbe fatto, perché il raffronto è quello che si fa fra Tasi e Imo Prima Casa, e fra 2014, quindi stime, proprio stime, veramente stime e non di più, del 2014, basate su un numero minimo di comuni, e dati solo Prima Casa del 2012. Quindi il primo vizio è sul fatto che si tratta di una fonte, di un numero limitato. Il secondo sul fatto che si parla solo di Prima Casa, e non si considera oltretutto il fatto che le aliquote, i comuni che stanno deliberando in questi giorni, le stanno già aumentando rispetto ai primi, perché sono cambiate varie condizioni, fra cui anche la possibilità di uno 0,8 per mille in più per la Tasi, che all'epoca delle prime delibere non era ancora certissimo. E comunque c'è di fondo un confronto diverso che va fatto, che è quello che faceva all'inizio, e cioè quello fra 2014 e non 2012, il mero confronto sulla prima casa, ma 2014 e 2011, cioè del momento fra il 2011 e il 2012 in cui c'è stato lo stravolgimento della situazione della tassazione degli immobili, perché altrimenti si dà per scontata una situazione che non bisogna affatto dare per scontata, quella di quell'aumento improvviso e spropositato che vi è stato da un anno all'altro. Ecco, queste sono davvero le considerazioni da fare, quelle sul fatto che finalmente si riconosce che lei ha giustamente parlato di errore, è proprio la parola da utilizzare, e che se fosse stata detta da qualcuno anche solo 2 anni fa, non so quali sarebbero potute essere le conseguenze, in un periodo in cui la manovra Salva Italia veniva considerata intoccabile. Intervenire massicciamente, pesantemente su un solo settore ha prodotto quegli effetti che all'inizio nessuno sapeva o voleva vedere, e che adesso vengono riconosciuti. A quella diminuzione di valore di cui parlavamo, di 1.000-2.000 miliardi, cifre enormi, va aggiunto poi il discorso dei consumi, cioè si comincia finalmente anche da professori stimati che scrivono sui nostri giornali a riconoscere che anche i consumi dipendono dai patrimoni delle certo. famiglie, e dipendono anche dalla psicologia di queste famiglie, perché non scordiamoci che è vero che nessuno vende un pezzo di casa per comprare qualcosa, ma la consapevolezza di un valore anche ipotetico di un bene superiore o inferiore cambia pesantemente le abitudini, ma le cambia addirittura poi la situazione di incertezza. Qui ci troviamo per l'ennesima volta nel settembre del 2014 in una situazione in cui a un carico pesantissimo di tassazione sugli immobili si affianca ancora l'incertezza sul quantum, diciamo così, perché sappiamo che ci sono scadenze ripetute e confuse, e difficoltà da parte dei cittadini sino a pochi giorni prima della scadenza di conoscere il reale peso dell'imposta, e anche l'incertezza gli economisti sanno. È chiaro, perché a quel punto io non lo so, mi metto da parte più di quanto mi aspetto addirittura, per il resto tengo la manina corta. Quindi questo è ovvio che per milioni di italiani succede esattamente questo. Siccome è in arrivo anche la riforma del catasto, e nella riforma del catasto in teoria dovrebbe essere uguaglianza di gettito, ma noi tutte le volte abbiamo visto in questi anni come finisce. Allora le faccio già la domanda, e poi la risposta la diamo però dopo il minuto che adesso dobbiamo dedicare all'informazione sul traffico. Cosa succede con la riforma del catasto? Per il governo cosa potrebbe fare sulle rendite catastali, che sono moltiplicate, alzate in questi anni, che hanno potentemente contribuito all'aumento del gettito sul mattone, per evitare che la riforma catastale sia l'ennesima stangata dopo tutti questi anni? La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:51 e 3 secondi. Un aumento di gettito dal mattone in 4 anni, più o meno da 10 a 26 miliardi, ma un danno di deprezzamento a cui ha potentemente contribuito l'aumento del gettito del mattone, dell'immenso patrimonio immobiliare su cui le famiglie hanno scommesso da decenni buona parte, la parte prevalente del proprio portafoglio, l'effetto che tutto questo ha per trattenere i consumi, mentre l'Italia resta non solo in recessione ma è entrata anche in deflazione. E la domanda: ma voi ci credete al fatto, come dice il Tesoro, di che pagate il 30% in meno? Prima di ho chiesto prima di strade al nostro ospite, che è il segretario generale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, di capire con la riforma del catasto che cosa ci può aspettare e che cosa invece il governo potrebbe fare per rimediare almeno in parte agli errori che sono compiuti negli anni alle nostre spalle, alcuni ascoltatori, perché avevo fatto loro una domanda. Cominciamo con Gianluca, che ci chiama da Brescia. Prego Gianluca. Sì, Oscar, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo raccontare semplicemente che io ho un piccolo appartamento in provincia di Brescia, sì. come prima casa ci vivo. L'anno scorso e negli anni precedenti non ho mai pagato IMU, quest'anno la TASI ho pagato circa 60 euro. Quindi nel tuo caso diciamo il Tesoro per il momento non trova riscontro. Sentiamo Luciano, che ci chiama da Firenze. Prego Luciano. Senta, io le volevo dire, siccome io sono un geometra e lo faccio anche per i miei figli, certo. Quello che è più grave è che IMU, TASI siamo lì quasi uguale nel comune di Campi Bisenzio, no, di Firenze, sì. Però quello che è grave, hanno tolto le detrazioni e mia figlia paga di più di 100 euro di quando pagava l'IMU, perché ha due bambini, certo. Non avendo più detrazioni, se prima pagava, ora non mi ricordo le cifre perché sono fuori in macchina, ma faccia il conto, se prima pagava sui 600-700 euro, oggi ne paga 800. Bene, grazie a queste esperienze. Naturalmente non ho alcuna pretesa di dire che chi ci telefona rappresenta lo spaccato statisticamente rilevante per dire come vanno le cose, però tireremo le fila a fine anno, quando avremo pagato dopo il 16 dicembre tutto ciò che dobbiamo per il 2014 e vedremo se davvero si paga il 30% in meno. Tutti quanti, cioè i prevalenti commentatori che conoscono i fondamenti un po' complessi della tassazione immobiliare propendono per il no. Vedremo se sarà così. Ma torniamo a Giorgio Spaziani Testa. Con la riforma del catasto e con la crescita dei moltiplicatori delle rendite che c'è stata negli anni passati, che cosa c'è da attendersi? La tentazione e il riflesso che può avere ognuno di noi è quello di dire ulteriore salasso e ulteriore aumento. Noi come Confedilizia abbiamo provato ad avere tenere un atteggiamento più concreto e più, diciamo, moderato da questo punto di vista, e tornare all'origine e alla funzione vera, che è quella del catasto, che è quella di addirittura di strumento di garanzia. Quindi abbiamo cercato di collaborare perché fossero inseriti punti essenziali di trasparenza e anche di tutela per il cittadino, anche in fase contenziosa di merito, perché gli immobili siano valutati come redditività e come valore nel modo più adeguato. E quindi anche la previsione dell'invarianza di gettito da verificarsi a livello comunale è qualcosa che è importante e che andrà verificata. Tutto questo poi dovrà essere per i governi futuri, chissà quali saranno, uno strumento, appunto. Non bisogna confondere le basi imponibili, come purtroppo viene fatto con questi aumenti improvvisi e molto facili dei moltiplicatori, le basi imponibili poi con le scelte fiscali del legislatore date da tipo di imposta e aliquota di imposta. Fotografiamo bene il patrimonio immobiliare e poi scegliamo come tassarlo. Se vogliamo, il valore degli immobili potrebbe, in una ipotesi che ovviamente noi portiamo avanti e confidiamo che possa realizzarsi, potrebbe servire solo per tassare le compravendite degli immobili e non il patrimonio in quanto tale. Quindi utilizziamo e speriamo che i governi, il Parlamento anche, che si è mosso molto bene su questo piano, e i governi utilizzino il catasto come strumento trasparente per poi fare le proprie scelte fiscali. Tre parole sull'IMU. Questi due ascoltatori non saranno rappresentativi però statisticamente, ma ci dicono una cosa fondamentale, che un accenno c'è stato. In molti casi, i dati generali li vedremo alla fine, ma in molti casi si potrà verificare la situazione di un pagamento superiore a quello dell'IMU 2012 o addirittura di un pagamento quando nel 2012 non c'era per la prima casa, proprio perché nel 2014 non c'è una detrazione fissata per legge per la prima casa, né per il proprietario né per i familiari, mentre prima c'era. Queste detrazioni sono solo rimesse alla bontà dei comuni. In molti casi non le stabiliscono. Eh no, perché i comuni dicono ci hanno tagliato i trasferimenti, quindi noi a questo punto dobbiamo fare il massimo oggetto. Mi dice in 10 secondi che pensate dello sblocca Italia per quello che riguarda l'edilizia? Noi pensiamo che l'impostazione fosse giusta, dico così adesso perché purtroppo siamo in una fase in cui non si riesce ad avere certezze. L'impostazione giusta è quella di rimettere l'immobiliare, il ministro Lupi si è impegnato per questo, al centro dell'attenzione, anche per stimolare il settore anche dell'affitto. Bisogna vedere le misure finali. Esatto, anche perché noi i testi come sempre non ce l'abbiamo e senza avere testi è difficile dire alcunché. Io ringrazio Giorgio Spaziani Testa. Grazie. Continuate a scrivere al nostro indirizzo, la versione di Oscar @24.it. Oggi è il mio compleanno, un saluto doppio a tutti, a domani.